sei capace tu a cambiare la gomma? Ma figurati cosa sono capace, guarda. L'importante è incontrare qualcuno che sappia farlo. Guarda. Voi non avete problemi. C'è un ascoltatore che dice: che bella via che avete trovato per risparmiare, Deborah e Nicoletta. Fare la spesa con la carta di credito altrui. Che cosa c'è di più bello? Adesso dovete farci questa gentilezza con silenzio, consegnare le cuffie ad Antonio Caielli e Mirko Labella, che adesso altrettanto silenziosamente si avvicineranno. Se invece che changer la femme, changer la cuffia. La cuffia. I watch the ripples change the size, but never. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Avrete sicuramente letto in questi giorni o sentito la notizia del via libera del ministro Lorenzin e del ministro Pinotti alla coltivazione della cannabis all'interno dello stabilimento chimico militare di Firenze per la produzione di farmaci per la terapia del dolore per pazienti oncologici o pazienti affetti da HIV o per curare i sintomi di patologie gravi come la sclerosi multipla, la sclerosi laterale amiotrofica, meglio conosciuta come SLA, o il glaucoma. I ministri però ci tengono a precisare, e lo facciamo anche noi con grande forza questa mattina, che non si tratta di un primo passo verso la legalizzazione delle droghe leggere, ma sicuramente, Nicoletta, tu mi potrai insegnare che questo è un passo avanti importante nella cura del dolore, tema che sicuramente avremo modo di affrontare in una prossima puntata di Cuore e Denari. Assolutamente sì, promesso, parleremo presto dell'uso terapeutico della cannabis, ma oggi vogliamo parlare della Maria, i giovani ragazzi la chiamano così, da un'indagine del Dipartimento Politica Antidroga sull'utilizzo di stupefacenti in Italia è emerso che uno studente su quattro fuma cannabis e i numeri sono in crescita. Oggi la marijuana è facilmente reperibile, costa poco, non fa paura, ma fa danni. Gli adolescenti soprattutto sono particolarmente a rischio, sono vulnerabili agli effetti a lungo termine di questa droga, e il New England ha fatto di recente una revisione di tutta la letteratura e afferma proprio che la cannabis può produrre dipendenza e che l'uso costante influisce con il rendimento a scuola e al lavoro. Ne parleremo tra poco con il professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo, per conoscere cosa il mondo scientifico accertato, almeno fino ad oggi, riguardo agli effetti della cannabis. Ma ci raggiungerà anche il professor Alessandro D'Avegna, scrittore e professore, che ci aiuterà proprio grazie alla sua esperienza diretta con i ragazzi a capire che cosa i nostri figli cercano e che cosa trovano in uno spinello. Il consumo di sostanze stupefacenti o il contatto con chi ne fa uso è sicuramente una delle cose che può preoccupare maggiormente un genitore, preoccupazioni che come questa forse poi si fanno sentire maggiormente negli anni del liceo, anche se non è detto che non continuino a presentarsi anche negli anni successivi. Ogni età ha le sue preoccupazioni, le sue sfide, per i giovani e per le loro famiglie al centro di tutto spesso c'è il desiderio di indipendenza, un desiderio che per alcuni si concretizza tutto in una volta quando si arriva all'università, magari si cambia città e ci si trova a vivere da soli, spesso con altri studenti, in una casa indipendente. Hai ragione, Deborah, che è un vero e proprio passo che devono compiere gli studenti, ma lasciate lo dire anche i loro genitori, perché direi che è un passo proprio alla Cuore Denari, questo, perché oltre al cordone ombelicale che viene reciso, la sindrome del nido vuoto di cui abbiamo parlato anche qualche volta, però poi per i genitori ci sono anche i costi dell'affitto, delle bollette, ci sono poi le preoccupazioni, le responsabilità per il ragazzo sicuramente, ma anche per i genitori che pensano al ragazzo lontano. E anche le preoccupazioni però per il padrone di casa che affitta una sua casa di proprietà e talvolta teme ritardi nei pagamenti, danni e spese e magari qualche fumata di troppo all'interno di queste case, che dici. Nella seconda parte del programma parleremo anche di questo, parleremo di case in affitto in queste settimane in cui si avvicina per tanti l'inizio delle lezioni universitarie. 800 24 00 24 per discutere con noi di tutti questi argomenti, per raccontarci la vostra esperienza e farci le vostre domande se siete inquilini o genitori di inquilini, ma se siete anche proprietari. Marijuana, diciamo la verità, per quel che oggi sappiamo, procurarsela è facile, costa poco, i nostri ragazzi non hanno difficoltà a trovare un po' di Maria per farsi uno spinello, questo lo sappiamo tutti, genitori e non genitori, ma sono intanto anche a chiedersi come può una sostanza che si chiama innocuamente Maria Giovanna fare così male. C'è il rischio di sopravvalutare il problema o invece c'è quello di sottovalutarlo? Noi giriamo subito la domanda al professor Remuzzi, che proprio in questi giorni sul Corriere della Sera ha riportato i risultati della revisione del New England. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Professore, ci dà un rapido inquadramento del problema, per favore? Ma gli effetti della marijuana rispetto a quelli di tutte le droghe, se vogliamo essere comparativi, per consumo occasionale e particolarmente negli adulti, non sono certamente degli effetti particolarmente drammatici. Questo discorso però cambia completamente se noi applichiamo questo ragionamento ai ragazzi molto giovani, perché un conto è avere 14 anni, un conto è averne 22. E se invece di parlare di consumo occasionale parliamo di consumo che diventa abituale o addirittura di consumo tutti i giorni, allora gli effetti sul sistema nervoso centrale sono importanti, gli effetti sul comportamento dei ragazzi sono importanti, e quindi non siamo assolutamente di fronte a una sostanza che deve essere considerata innocua, è una sostanza che fa male. E corriamo il rischio di essere un po' bacchettoni, professor Remuzzi, perché lei sa che nel momento in cui si tende a si tendono a denunciare i danni dell'erba, le polemiche nascono, fioriscono. Ma guardi, però questi sono sostanzialmente degli slogan, mentre dall'altra parte c'è il fatto che questa sostanza ai ragazzi fa male. Facciamo l'esempio del fumo di sigaretta. Professor Remuzzi, mi scusi, noi la richiamiamo perché sul più bello la sua voce traballa un po', la esatto. Sentiamo un po' malino, dalla regia la richiamano e Deborah, sicuramente è una delle preoccupazioni dei genitori che hanno figli adolescenti, il consumo di droghe, il consumo di alcol al primo posto, ma non sono preoccupazioni infondate perché i dati, li abbiamo visto, sono parlano chiaro, sono molto chiari, sì. E il consumo è in crescita, ma come sempre mi insegni, dietro i numeri ci sono le persone, sono adolescenti in questo caso, giovani uomini, giovani donne che tra poco torneranno a sedersi tra i banchi di scuola. In linea con noi abbiamo il professore che forse è ciascun spionato. Ragazzo, sì. Vero? Ah, vorrebbe avere al suo fianco. Il professor Alessandro D'Avegna è in linea con noi. Buongiorno professore. Buongiorno, una precisazione, tutti tranne i miei alunni vorrebbero avermi al mio fianco, quindi andremo a fare magari un piccolo sondaggio, professore, esatto. Per vedere se questo corrisponde a verità. Poi tra l'altro è giovanissimo il professor D'Avegna, per sì. Cui altro che se lo vogliono con loro. Devo dire che io una volta che l'ho presentato, adesso torno a dargli del tu, perché per me insomma Alessandro ci accompagna già dai tempi di questa casa non è un albergo. Senti Alessandro, tu i ragazzi li vedi ogni giorno, ce li vuoi raccontare? Perché spesso voi insegnanti avete l'occhio lungo, riuscite a vedere delle cose che noi genitori non riusciamo a vedere o non vogliamo vedere. Sì, l'occhio lungo a volte è un occhio molto corto, i ragazzi a volte tornano dall'intervallo con le pupille dilatate e un'assoluta incapacità di intendere e di volere. Se questo fosse sufficiente a dire quello appunto che si diceva, che il professore sosteneva prima, cioè in quell'ora il ragazzo è perso. Quindi evidentemente c'è una difficoltà poi a stare nella realtà che è l'effetto delle sostanze psicotrope. E perché un ragazzo cerca appunto rifugio e alla fine una dipendenza in una realtà di questo genere? Ma proprio perché in classe, a scuola si sta annoiando e cerca una via di fuga. Questo io lo riporto a un problema educativo. Cosa noi riusciamo a dare a questi ragazzi perché non si annoino in questa vita, e quanto riusciamo a educarli per che si rendano conto che la vita non è solo un divertimento e che quindi si può anche stare nella realtà affrontandone la fatica buona del fare cose buone senza fuggire immediatamente. Quindi questo è un aspetto che riporterei all'ambito educativo prima ancora di fare un ragionamento su quanto fanno male o non fanno male. Io quello che vedo è che vanno a incidere sicuramente sull'area della motivazione e dell'emotività, quindi reazioni spropositate, mancanza di impegno, di voglia a lungo a breve termine. Ci sono tutti effetti, sono sotto gli occhi di un insegnante che abbia così un minimo di consapevolezza di chi ha di fronte. E d'altronde nel New England, professor Remuzzi, l'abbiamo ripescato, nel New England si legge che la droga ha un effetto immediato sulla capacità di apprendere, quindi non solamente sull'attenzione, e questo si manifesta non solo nel giorno in cui viene consumata, ma persiste anche per molti giorni successivi. Insomma, questo significa un po' che lo spinello interferisce sul rendimento scolastico e anche sul rendimento lavorativo. Ma dal punto di vista biochimico, professor Remuzzi, che cosa succede? Quello che succede è che il principio attivo della cannabis interferisce con i sistemi dei cosiddetti endocannabinoidi endogeni. Noi ce l'abbiamo la nostra cannabis in un certo senso, abbiamo dei mediatori che assomigliano molto al principio attivo della cannabis, che hanno i loro recettori e che servono persino allo sviluppo del cervello, oltre che a tutte quelle attività di cui il professore parlava prima. La motivazione, per esempio, è una cosa fondamentale che viene meno in chi fuma abitualmente cannabis, viene meno la capacità di risolvere i problemi, la capacità di fare decisioni, la capacità di ricordare, la capacità di controllare emozioni e comportamento. Queste cose hanno tanti mediatori nel cervello, uno è quello degli endocannabinoidi endogeni, che sono utili anche tra l'altro per lo sviluppo del cervello, e quindi questo, diciamo, quanto più è giovane la persona che assume queste sostanze, tanto peggio è. Poi ci sono la dopamina, per esempio, che è uno dei sistemi attraverso cui noi siamo motivati, allegri, entusiasti, riusciamo ad entusiasmarci per un professore bravo a scuola. A me capitava, noi gli studenti sono molto bravi a distinguere i professori che sanno motivarsi, i professori che sono noiosi, che non hanno niente da dire, però questo è il frutto di un sistema dopaminergico, di dopamina, di questo mediatore chimico che si chiama dopamina integro. E poi ci sono anche delle possibilità che questo tetraidrocannabinolo, il principio attivo appunto THC della cannabis, interferisca con i sistemi di trasmissione tra una fibra muscolare e l'altra. Quindi il problema è complesso ed è molto possibile che interferire con questi sistemi alla lunga porti a dei danni anche nella capacità di apprendere, che sono sostanziali e che sono stati documentati molto bene. Ecco, professore Muzzi, tra l'altro sentiamo anche spesso dire, ma insomma, che cosa vuoi che sia uno spinello, no? Si sminuisce molto quello che può essere l'effetto di questa abitudine, per non parlare poi addirittura di ragazzi che hanno questa abitudine per l'appunto all'interno della famiglia, no? La si condivide addirittura spesso con qualche genitore. Mi chiedevo se i danni sulle capacità cognitive, sulla memoria, sulla capacità di attenzione sono reversibili una volta che si sospende l'uso della droga. Ce ne sono di effetti anche permanenti? I danni sono in generale reversibili. Gli adolescenti che incominciano a fumare tra i 14 e i 22 anni e finiscono a 22 anni, per esempio, questi sono studi che sono stati fatti negli anni scorsi, hanno più difficoltà cognitive all'età di 27 anni che quelli che non hanno mai utilizzato cannabis. Quindi c'è anche un effetto nel tempo, però in generale gli effetti più gravi, quelli dell'intossicazione acuta, quelli che descriveva molto bene il professore prima, dei ragazzi che tornano all'intervallo, quelli sono reversibili quando uno smette di fumare. Però questo studio, che è uno studio bellissimo fatto nel 2008, fa vedere proprio come smettere a 22 anni e poi andare a studiare questi ragazzi a 27 anni per le loro capacità cognitive, si riesce ancora a vedere una differenza con i compagni che sono stati selezionati per essere molto simili e che non hanno mai fumato. Professore, torno da lei. Alessandro, un ragazzo disattento, svogliato, che inizia ad andare male a scuola, a mostrare disinteresse anche per gli insuccessi scolastici, quindi portiamo i ragazzi a casa, non solamente sotto gli occhi del professore. Questi sono tutti i campanelli d'allarme che a un genitore dovrebbero suonare come un invito a occuparsi del problema? Io in ragione dei libri che scrivo ricevo tantissime lettere da parte dei ragazzi e recentemente ne ho ricevuta una proprio di un ragazzo 15 o 16enne che raccontava il fatto che dalla sua famiglia ha sempre ricevuto poche attenzioni e molti oggetti. E lamentava il fatto di desiderare che almeno una volta uno di loro venisse a una partita di calcio di quelle che lui disputa la domenica, e richiedeva questa attenzione. A un certo punto mi ha colpito un passaggio di questa lettera in cui mi confidava il fatto che ha combinato anche un sacco di guai proprio per, e la frase che usa è questa, avere almeno uno spazio alla settimana nei pensieri dei miei genitori. Ora, questa frase mi ha colpito. Stringe, cioè, il cuore, vero. Fa vedere che alla fine un adolescente è una persona in formazione che ha bisogno di dipendere da qualcosa o da qualcuno, e quel qualcuno deputato a farlo sono le persone a cui è affidata l'educazione di questi ragazzi, in primis i genitori e poi la scuola o quelle agenzie educative a cui i genitori si rivolgono. Nel momento in cui non riescono a dipendere, in una dipendenza virtuosa che a poco li porterà all'indipendenza di cui parlavate voi all'inizio, inevitabilmente un ragazzo va a cercare altre dipendenze, perché noi abbiamo bisogno, soprattutto a quell'età, di dipendere da qualcuno per trovare poi qual è lo spazio che occupiamo nel mondo, per prenderne poi le distanze. E il fatto dell'uso della canna, delle sostanze psicotrope da parte, o dell'alcol da parte di questi ragazzi, secondo me evidenzia proprio un bisogno di dipendere da un'autorità che nel momento in cui è assente è risolvibile in una dipendenza controllabile, perché posso procurarmi appunto la marijuana, posso procurarmi l'alcol, e quella è una dipendenza immediata. Certo, poi trattandosi di cose non è una dipendenza liberante o che mi fa crescere, è una dipendenza che provoca altra dipendenza. E quindi secondo me l'aspetto interessante è quello, lo riporto sempre a quello educativo, anche perché non essendo io scienziato non so entrare nei dettagli come il professore. Quello che vedo è la necessità da parte di questi ragazzi di un accompagnamento, di uno sguardo, di un bisogno di autorità che oggi, lo diciamo a destra e a sinistra in tante analisi sociologiche, è il venire a mancare di un codice paterno nella società. Paterno non inteso teso maschile, ma esatto, nel senso di autorevole, certo. Un'autorità che faccia toccare la realtà e faccia provare a questi ragazzi che la vita, che ha degli elementi di canna, se uno li sa trovare, come diceva il prof, noi produciamo la stessa ce li sostanza. Abbiamo già esatto. 800 24 00 24 per confrontarci, se siete genitori, se anche voi temete, perché è una preoccupazione molto diffusa, entra al liceo, oddio, si farà le canne, come sarò capace di intercettare questa sua forse richiesta di aiuto, richiesta di attenzione. Sì, molti ragazzi si avvicinano anche al fumo, come anche al fumo di sigaretta, per fare gruppo, no? Per entrare nel gruppo degli amici, ma come ci raccontava il professor Davenia, non si fuma solo per farsi amico qualcuno, si fuma forse proprio perché mancano qualche cosa di sano da cui dipendere, e quando manca l'autorità, l'autorevolezza del paterna, intesa proprio come genitori, come famiglia, forse i ragazzi si sentono soli e sono ragazzi anche che faticano a confrontarsi con la noia, nello stare qui e ora. 800 24 00 24, il professor Remuzzi è in linea con noi per raccontarci il cotè scientifico di questi studi, il professor Davenia per raccontare, appunto, anche per dare una mano ai genitori che vogliono intervenire al nostro programma, e diamo la parola ai nostri ascoltatori che si sono messi in contatto con noi col nostro numero verde. Debora, dove esatto, andiamo? Sì, andiamo ad Alessandro. Ah sì, allora adesso facciamo una cosa, Carmelo richiama l'ordine, sentiamo Claudio, così mettiamo da parte poi le sue considerazioni, le commentiamo dopo la borsa. Claudio, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. La mia domanda era questa, cioè il rapporto, cioè sulla bilancia, l'alcol e la cannabis, Maria, come vogliamo chiedere. Naturalmente con un utilizzo non quotidiano, che sicuramente è devastante in tutti e due i casi, ma come forse succede molto più normalmente nei weekend, anche tra giovani o anche tra adulti, non so. Ecco, grazie mille. Molti altri ascoltatori, se hai fatto caso, Nicoletta, fra gli SMS poniamo l'accento sul medesimo rapporto, il medesimo confronto. E noi ne parliamo subito dopo i mercati, ci sarà anche l'occasione per raccogliere ancora un pensiero del professor Davenia, che poi sai che le scuole stanno iniziando. Altro il professor Davenia ha già oggi le sue... si riparte a Bolzano, se non mi ricordo male. e denari. Ragazzi, sono 2 anni che si vive tutti insieme. Si è dato 3 esami in 4. Anche te, Pino, scusa, visto che siamo a dirsene. Sono 4 mesi non tutti rifai il letto. Lo so, tu fai veramente schifo. Ma perché lui è un artista, capito? È uno che vive nel mondo dell'arte, crea. Tanto poi i piatti chi li lava? Pino, ma sempre con questi discorsi da serva, sei noioso, sai? Quando siamo entrati, gli accordi erano ben diversi, ricordate? La cassa comune, la spesa, una volta per uno, la pulizia del cesso. Qui l'unico che pulisce sono io. Sì, l'autonomia è una sfida per tutti i giovani, una sfida che può portare a commettere anche qualcosa di pericoloso, e stamattina è il tema che stiamo affrontando. Ma nella sfida dell'autonomia c'è anche la gestione, lo avete sentito, di una casa, quando negli anni dell'università capita di vivere l'esperienza dello studente fuori sede. A preoccuparsi non sono solo i genitori, ma anche e soprattutto i padroni di casa, che a volte si espongono a rischi economici non da poco. Allora oggi nella pagina dei denari parliamo degli affitti per gli universitari da entrambi i punti di vista. 800 24 00 24 per cominciare a prenotare i vostri interventi. E noi torniamo al tema con cui abbiamo aperto questa puntata di Cuore Denari: la Maria e i nostri ragazzi, la cannabis, lo spinello. Prendiamo spunto anche da una revisione del New England che ci racconta, e abbiamo in linea con noi il professor Remuzzi, che sul Corriere ha proprio dedicato un servizio a questo, ci racconta quello che la scienza sa sugli effetti della cannabis sulla salute dei nostri ragazzi. Ma professor Remuzzi, ogni volta che si parla di una sostanza che genera dipendenza si tende a confrontarla con un'altra, e quello che ci chiede Claudio dalla provincia di Alessandria, che prima dei mercati ci ha chiesto un confronto tra cannabis e alcol. Spesso però si consumano entrambe le sostanze. Esatto. Professor Remuzzi. La domanda è interessante perché si tratta delle 2 droghe psicotrope, cioè che agiscono sul sistema nervoso, più utilizzate dai ragazzi. Confronti diretti non è che ce ne siano tantissimi. Lo studio più bello è stato fatto è stato fatto negli Stati Uniti, pubblicato molto recentemente su un giornale che si chiama American Journal of Drug and Alcohol Abuse, giornale americano per l'abuso di alcol e droga. Sono stati studiati dal 2007 al 2011 7.000 studenti, e loro è stato chiesto come si sentono dopo aver abusato anche in modo importante di alcol o cannabis. Uno dei problemi più importanti è quello del guidare, e sembra che con l'alcol sia molto peggio, 13 volte più possibilità di incidenti con l'alcol che con la cannabis. E soltanto 3 volte di più, ma qualcuno dice 7 volte di più di chi non fuma per quanto riguarda la cannabis. Questi ragazzi che prendevano alcol dicevano di avere molto più difficoltà con il ragazzo o la ragazza, col boyfriend, ed avevano più morsi con l'alcol che con la cannabis, ma quelli che fumavano regolarmente cannabis avevano compromesse di più le relazioni con i professori della scuola, con quelli che negli Stati Uniti si chiamano supervisor, il tutor, quello che si deve occupare del tuo rendimento a scuola, e la percezione di fare qualcosa di negativo per le ragazze era più con la cannabis che con l'alcol, forse perché la sostanza è illegale. Insomma, il confronto è abbastanza difficile da fare per quello che avete detto prima, che tante volte le 2 sostanze vengono consumate insieme, ma ammesso che si riesca a fare, sono 2 cose che fanno male e che influiscono sul nostro comportamento, sulla nostra emotività, sul rendimento a scuola in modo diverso. Per quanto riguarda il rendimento a scuola, pare più la cannabis che l'alcol. Insomma, è un confronto che lascia un attimo il tempo che trova, fanno male tutte e due. Professor D'Avegna, con lei torniamo a scuola, ma abbiamo in linea con noi Carlo dalla provincia di Monza Brianza. Buongiorno Carlo. No, grazie per la bellissima trasmissione. Grazie. Grazie. Allora, una premessa: io ho 54 anni, nella mia vita mi è capitato molto spesso di farmi delle canne. Ho un figlio che adesso ha 25 anni e so per certo, perché lui me l'ha detto, che ha provato a farsi le canne. Allora, io penso, volevo dire semplicemente questo, cioè, secondo me c'è un po' di ipocrisia su queste storie delle droghe leggere, cioè vengono utilizzate per distrarre affronta i problemi che sono invece i problemi dell'alcol, che sono i problemi del tabacco. Cioè, lei prima parlava di quantificare. Esatto, quantifichiamo quanto ci costa praticamente la tossicodipendenza da sigarette o quanto ci costa la dipendenza da alcol in Italia. Nessuno ne parlerà mai, cioè, costa, cioè gli alcolizzati sono tantissimi, i tabagisti sono tantissimi, ma è meglio parlare di marijuana. E poi a me vanno bene tutte quante le ricerche scientifiche sul tema, però quando parlano le persone che non hanno provato, a me non voglio dire che bisogna provare, però sfiderei chiunque a dire: spiegami cosa si prova a fare l'amore se non l'hai mai fatto. Cioè, è una cosa un po' è una cosa un po' strana. A me non piace molto, non piacciono molto le persone che poi nella vita magari hanno fumato sigarette o hanno bevuto alcol, ma non hanno mai provato a farsi uno spinello. E descrivere che cosa si prova, o che tipo, o parlare di dipendenza, oppure di dose soglia, che cosa vuol dire? Farsi, perché uno che si fa una canna è una persona che si fanno 8 canne. È una cosa diversa, non è vero. Una persona che si fa una canna ottiene un effetto, perché se ne può fare altre 7 dopo e l'effetto è sempre quello. A differenza di uno che beve alcol, che invece ad esempio si ubriaca da far paura, cioè è differenza c'è tra un bicchiere e 2 litri, assolutamente. Tutto questo volevo dire. Grazie Carlo. A chi giriamo? Ma io penso che sia una riflessione che possono commentare entrambi i nostri ospiti, perché ad esempio Alessandro, tu come professore immagino che tu abbia affrontato il discorso di spinelli, canne, delle dipendenze con i tuoi ragazzi, e non so se la domanda non necessariamente il tema dipendenza in termini magari, generali, non ecco, magari uno lo affronta anche se non si è fatto delle canne. Alessandro. Certo, tanto grazie per questo intervento che è molto interessante, e richiama sempre al discorso dell'autorità. Se io con mio figlio entro in farmacia e lui vede una serie di flaconi colorati e chiede di berli perché appunto lo appassionano quei colori, io ho il dovere, l'obbligo morale, anche se non li ho provati, di dissuaderlo dal farlo, lo devo difendere, no? Quindi è chiaro che chiedere alla scienza dei pareri chiari sugli effetti è un po' questo, no? Se la medicina decide di usare queste sostanze in ambito clinico è perché vanno usate sotto controllo, non sono a disposizione o non dovrebbero essere a disposizione di un uso indiscriminato, proprio perché hanno degli effetti che vanno somministrati sotto controllo. Quindi io capisco che l'ascoltatore può dire che non gli piacciono le persone che parlano senza avere provato. Ha avuto un'esperienza diretta. Sì, credo, insomma, non è che io ho bisogno di farmi una canna in classe per dire ai miei alunni che cosa si prova e gli effetti. Lo vedo nei loro occhi. Mi viene in mente la scena di Culto di notte prima degli esami, in cui appunto il professore buonanima di Faletti a un certo punto, alla fine di tutto il percorso con i ragazzi, chiede al ragazzo che non si era mai fatto una canna di procurargli dell'erba. E qui abbiamo ribaltato appunto, cioè chiediamo ai ragazzi di essere come loro, quando invece dovremmo esercitare semplicemente autorità in quegli ambiti che siano l'alcol, siano le canne, sono oggettivamente, nel caso di dipendenze, negativi. D'altronde, sempre quando tutte le volte che si affronta l'argomento cannabis, professor Remuzzi, anche lei è un medico, ma anche un padre, no? E sicuramente avrà affrontato questo discorso anche con i suoi figli, e sicuramente si sarà sentito ribattere dal ragazzo, e non solo dai ragazzi, se le canne fanno male, l'alcol, le sigarette, l'inquinamento forse fanno bene e possono causare sicuramente danni gravissimi alla salute, eppure non sono dichiarati illegali come invece la marijuana. Professor Remuzzi, lei che cosa risponde? C'è una bellissima conclusione di un articolo di questi giorni del New York Times, di una persona che pensa che la cannabis in realtà si debba legalizzare, quindi parte da un punto di vista che, se vogliamo, è molto vicino di quello dell'ascoltatore che è intervenuto dicendo: se non avete provato, ne sapete. E lui dice, alla fine, pur essendo una persona che non è affatto bacchettona, al punto che vuole legalizzarla, in ogni caso bisogna fare di tutto per tenere i ragazzi lontani dalla cannabis, anche se a mio avviso questa non dovrebbe essere una ragione per imporre sanzioni più o meno gravi a chi consuma cannabis quando non si fa nulla per il tabacco e addirittura si celebra la gente che beve. Certo. Quindi io credo che adesso stiamo parlando di cannabis, quindi il ragionamento... E necessariamente noi, lo poniamo sulla cannabis. Parliamo di fumo, abbiamo parlato tantissimo di fumo e se vogliamo parlare di fumo la cosa interessante è che quando il professor Sirchia era ministro e ha stabilito che non si potesse più fumare al cinema, nei locali pubblici, al bar, al ristorante, dappertutto, adesso la gente comincia a prendere consapevolezza del fatto che il fumo fa male, quindi sorvegliare, certo. È bellissimo l'esempio dei boccettini rossi e verdi che mi piacciono. Vedi, perché Alessandro D'Avegna, oltre a essere un insegnante e uno scrittore, noi siamo proprio contenti, come abbiamo il professor Remuzzi, di avere questa coppia, il professor Remuzzi e il professor D'Avegna. Mi sembra che siate una coppia molto ben assortita. Alessandro D'Avegna deve lasciarci, sì. Ma voglio che prometta qua a Cuore Denari che tornerà. Di venire qua. Molto volentieri, se mi trattate bene come questa volta, senz'altro. Perché altre volte l'ha trattata male, Nicoletta? No, scherzo. Non è che dobbiamo aspettare adesso la conclusione dell'anno scolastico per averla qui, no? No, basta trovare l'ora buca. Ecco. Va bene, facciamo l'ora buca. Allora, invece al professor Remuzzi chiediamo un attimo di attesa, perché abbiamo Simonetta da Modena che è in linea, sì, con noi, e dopo la viabilità, prima di parlare delle camere, sì, delle, no, case, esatto, in affitto. E chissà, secondo te, insomma, se in una casa dove si sfuma che un po', un proprietario di questa casa, secondo te, può arrabbiarsi con questi ragazzi e sbatterli fuori? O se trova anche magari la Maria coltivata sul balcone, come ci scriveva Elisa che scrive, amica. Insomma, esatto, conosco una persona che si vantava di avere una piantina di Maria nel balcone e diceva a suo figlio di 5-6 anni di annaffiarla chiamandola proprio così, Maria, con lui. Io l'ho trovato decisamente poco educativo. Cuore e denari. Eccoci qua. Eccoci qua, il professor Remuzzi, c'è il professore? Sì. Oh, fantastico. Abbiamo anche Simonetta da Modena. Buongiorno Simonetta. Buongiorno. Io sono a chiamare perché ho avuto un'esperienza diretta. Sì. E ho avuto un figlio problematico che mi ha fatto passare le pene dell'inferno dai 18 ai 21 anni, diciamo. Proprio perché sono separata, non ho potuto seguire molto da vicino mio figlio. E chiaramente, come dicevate prima, la figura paterna è estremamente importante. Se questa è assente, purtroppo i ragazzi ne combinano di ogni colore. Sì, abbiamo detto figura paterna, mi scusi Simonetta, però in senso la paterna intesa come madre, padre, genitoriale, sì. Non abbiamo dato intesa genitoriale, sì, in questo senso, cioè sì. La figura paterna, cioè, può esserci anche nell'ambito di una famiglia, ma se questa figura non si impone, diciamo, nell'educazione dei figli, non è un esempio, diciamo, per loro. Può esserci anche una famiglia unita, però se il padre non è presente, i figli secondo me risentono di questa mancanza. Al di là di questo, vorrei tornare al discorso di Carlo. Io contesto profondamente quello che lui dice, perché secondo il suo ragionamento tutto quello che diciamo che non si prova, ecco, non si può giudicare. E qualsiasi comportamento, qualsiasi sostanza che uno assume, dall'alcol alla cioccolata al cibo, sempre in eccesso, comunque crea dipendenza. E sono d'accordo col professore, cioè io credo che la Maria, come cosiddetta, è una sostanza che presa a certi livelli, a certe se uno ne prende tanta, diciamo, ma neanche tanta, sì, se uno insomma... ha un consumo, un'abitudine, ecco, si innesca un'abitudine al consumo di questa sostanza. Una dipendenza. Una dipendenza. Crea dei danni nel cervello ed è una cosa che comunque è certificata dagli studi che sono stati fatti. Professore, Simonetta, se ha una domanda, perché poi noi dobbiamo salutare il professor Remuzzi e passare a un altro tema, sì, la sua domanda? Questa premessa, no, volevo solo dire che ho risolto il problema perché mio figlio è stato beccato 2-3 volte dalla polizia stradale con, sì, gli altri amici in macchina, è stato... gli hanno ritirato la patente, sì, gli hanno fatto questi controlli a sorpresa e ho visto che sono stati estremamente efficaci per il discorso di fare, diciamo, le analisi del sangue. E lui, con questo deterrente, è stato anche molto importante, è stato importante anche il fatto che io gli sia stata più vicina, certo, però sono completamente contraria al fatto che se una persona usa Maria si possa fare, perché è comunque un comportamento a rischio e i comportamenti a rischio innescano sempre delle problematiche che poi dopo non si riescono a gestire. Io credo che lo Stato in questo caso abbia fatto una legge giustissima nel fermare i ragazzi per strada, come fanno i controlli per l'alcol, fanno i controlli anche per la droga, e fare queste analisi a sorpresa può essere, secondo Simonetta, un deterrente per i ragazzi. Professor Remuzzi, un commento rapido per la chiamata di Simonetta, che mi sembra assolutamente allineata con quanto lei ci ha raccontato sulla revisione del New England, quindi i ragazzi rischiano di più. Ma il commento rapido è che queste cose fanno male, e alla fine forse la cosa più importante non è discutere se uno fa più male, l'altro fa meno. Bravo. Male, anche perché fanno male entrambi, diverso, e soprattutto molto spesso, l'abbiamo già detto, si usano insieme, ma questa è una testimonianza molto bella per invitare chi si deve occupare di questi ragazzi ad andare alla radice del problema, che è uguale per l'alcol, per la marijuana, per anche per il fumo al limite. Qual è il disagio che porta i ragazzi a rivolgersi a queste sostanze per stare meglio? Ci sono tantissimi altri sistemi per stare meglio a cui i ragazzi sono molto aperti, purché noi siamo in grado di proporli. Professor Remuzzi, grazie per essere stato con noi, siamo davvero felici di averla avuta a Cuore Denari, speriamo di averla qui in studio presto, intanto le auguro una buonissima giornata. Grazie tanto. A presto. Confondere l'affitto con l'affetto, siamo uniti per pagare la bolletta, siamo nomadi in tutti i condomini, siamo clandestini, siamo amici approssimati per difetto, siamo amici solamente per contratto, e non siamo né fratelli né cugini, siamo coinquilini. Io non so dove trovino siamo queste canzoni, Marco e Laura, sono incredibili, sono calzano bravissimi. Pennello. Chissà se anche voi vivete o avete vissuto da coinquilini magari ai tempi dell'università, o se magari questa esperienza la stanno facendo i vostri figli. Qual è il rapporto con il padrone di casa? Oggi vogliamo questi racconti, ma vogliamo sentire anche l'altra campana, proprio quella dei proprietari, dei padroni di casa, chiamiamoli così più brutalmente. Come si comportano i ragazzi che avete in affitto? Vi siete trovati di fronte a qualche situazione critica, proprio come anche quella che stavamo raccontando fino a qualche momento fa? Insomma, si sfumacchia un po' in questa casa, voi non siete d'accordo e state cercando anche di aggrapparvi a questo per risolvere un contratto d'affitto? 800 24 00 24, se volete raccontarcelo. La puntata di oggi è per molti aspetti dedicata ai giovani, questi e quindi ragazzi, anche ai genitori, certamente, questi ragazzi che ci danno gioie e dolori. Ora pensiamo in particolare ai molti che in questo momento dell'anno si stanno preparando ad un'importante sfida dell'autonomia, quella dell'università fuori casa. Molti giovani, reduci dall'esame di maturità, sono pronti a staccare il cordone ombelicale ed andare a frequentare la facoltà prescelta proprio lontano da casa, e quindi molte famiglie si accingono a fare un bel sacrificio dal punto di vista economico, anzi chiamiamolo investimento. Certo. Brava. Affittare casa nelle città universitarie costa, è una spesa rilevante, infatti più che un intero appartamento i ragazzi ormai affittano singole stanze, quindi condividono una casa con altri studenti. Devo dire che si risparmia, ma è anche il cuore più allegro. Il cuore più allegro, che ma stare da solo. Tu la vedi così, ma in realtà qua ci addentriamo in un mondo che è una vera e propria giungla: affitti e subaffitti, canoni alle stelle, proprietari che ne approfittano, inquilini che distruggono le case. Magari stiamo anche un po' esagerando, però sono certa che molti di voi saranno a conoscenza di episodi di questo tipo. Allora oggi vi diamo tutte le regole del contratto d'affitto corretto, anche se vi serve una sola stanza, situazione in cui peraltro si trovano anche molti lavoratori, non solo studenti, e daremo un'occhiata anche ai canoni di locazione. In realtà stiamo già finendo la prima parte del programma, ma saremo tutti i temi che affronteremo nella seconda. Paola Dezza del Sole 24 Ore, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Abbiamo interpellato Paola perché proprio giovedì scorso è uscito questo tuo articolo, sì. Affittare una stanza mossa anticrisi, quindi ci racconterai un po'. Milano è sempre carissima? Milano è la più cara, sì, in Italia. Ecco, anche se si vuole affittare una stanza, molti sì. ragazzi che stanno arrivando in questo periodo sono dolori per i genitori. Devono fare i conti con i canoni elevati. Ecco, e Palermo la meno cara. Palermo la meno cara, vedi, sì. Perché Ho letto tutto sul Sole. Ecco, allora ci sono diversi tipi di contratto d'affitto che si possono stipulare in questi casi: il contratto libero, il contratto a canone concordato, il contratto transitorio, tutti i contratti che ci spiegherà come si stipulano Fabio Pucci, segretario generale dell'UPI, l'Unione dei Piccoli Proprietari Immobiliari. Pucci, intanto la salutiamo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ma approfondiremo questi argomenti dopo il giornale radio. Cuore e denari. Studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetta umida. Ripassi bene la lezione di filosofia e la mattina sei giochina sulla scrivania e la sera ti ritrovi. Eccoci di nuovo insieme, oggi stiamo parlando, abbiamo lanciato il tema nella prima parte di Cuore e Denari, stiamo parlando dei progetti universitari dei figli, delle spese che devono sostenere i genitori per mantenerli lontani dalla città d'origine, stiamo parlando dei canoni di locazione, dei prezzi delle abitazioni a seconda delle città universitarie che naturalmente scegliamo, della tipologia di contratto che va stipulato in questi casi, contratto che tuteli i proprietari per evitare che le case date in affitto siano oggetto di un via vai continuo, no? E gli studenti che hanno bisogno di studiare in un ambiente sereno, accogliente, magari condividendo una casa con amici e colleghi di studio. E allora noi torniamo ad invitare mamma e papà all'ascolto a condividere con noi un po' le loro scelte, che città hanno scelto per i figli, li avete magari accompagnati anche a scegliere la casa, a vedere l'appartamento, la stanza, e quanto vi costa questo impegno? 800 24 00 24, continuate anche a scriverci al 349 238 6666 e soprattutto fatelo se siete tra quelli che una casa l'affittano, e spesso quell'affitto è un'entrata importante per sostenere una famiglia, magari avete però delle preoccupazioni rispetto ai giovani inquilini. Sono già pronti addirittura degli ascoltatori, Michele della provincia di Bari e Marisa da Modena, però mi perdoneranno, un paio di minuti vogliamo dedicarli ai nostri ospiti. Paola Dezza, affittare una stanza mossa anticrisi, da che mondo è mondo, però insomma gli studenti universitari hanno sempre condiviso appartamenti nelle principali città universitarie. Tu hai fatto un monitoraggio dei prezzi in giro per l'Italia, la città più costosa per le condivisioni di appartamenti per studenti è Milano, come sempre. È ancora Milano, sì. Abbiamo fatto proprio un'analisi, diciamo che il titolo è nato non tanto dal discorso degli studenti, sì, quanto dal fatto che ormai è una mossa anticrisi per chi si deve spostare magari per lavoro o per chi sceglie di andare a vivere da solo, comunque nella stessa città, e lasciare la famiglia principale, perché ormai affittare una casa, seppur piccola, da soli diventa praticamente impegnativo. Gli affitti vanno da 600 a 800 euro minimo al mese, e su uno stipendio, un primo stipendio, impattano non poco. Certo. Per cui si sceglie magari andare a vivere con un amico o con un collega, quindi cercare di condividere quelle che sono le spese. Nel monitoraggio che ha fatto Idealista, poi ne sono usciti altri di immobiliare.it, Milano è sempre la città più cara, in media 400 euro in media sul territorio cittadino, che però arrivano a 470 euro se si guardano le zone centrali, e scendono magari un pochino nelle zone più periferiche. Stiamo parlando di non un appartamento, di una camera, ecco, infatti questo, sì, per sì, chiarirlo sì, anche agli ascoltatori, per i quali peraltro anche queste cifre saranno del tutto improbabili, magari in città di provincia, invece insomma in città come Milano per una singola stanza sì, si può arrivare a pagare appunto questa cifra. Fabio Pucci, ritorniamo ai piccoli proprietari immobiliari ai quali ci siamo anche rivolti questa mattina, e poi ne sentiremo qualcuno. La vostra associazione quanta consulenza presta a quei proprietari che dispongono di abitazioni in città universitarie, vorrebbero metterle a disposizione appunto proprio per gli studenti? Quali sono le principali questioni che affrontano? Sì, sì, diciamo che questo è un mercato che fortunatamente ancora regge, perché gli studenti ci sono, ma ci sono anche le abitazioni, anche se vorrei rimarcare che sempre e comunque soprattutto la piccola proprietà privata che va in aiuto di quelle che oserei chiamare lacune statali, insomma. Detto questo, gli aspetti possono essere fondamentalmente due, che sono poi quelli che riguardano un po' tutta quanta la locazione generalmente, e sono appunto la scelta di un inquilino che paghi regolarmente l'affitto e che conduca l'appartamento secondo le regole canoniche, cioè vale a dire che alla fine della locazione riconsegni un immobile così come gli è stato consegnato fin dall'inizio. Pucci, ha sentito la prima parte del nostro programma? Abbiamo parlato di abitudine del fumo, di cannabis. Secondo lei quello può essere un motivo di risoluzione del contratto? Se un proprietario scopre che appunto chi occupa l'abitazione che ha dato in affitto fa uso di cannabis e magari insomma questo aspetto non era stato tenuto in considerazione nel momento della firma del contratto, perché chi è che va a pensarci? Secondo lei? Diciamo che è molto complicato e molto difficile, anche perché se noi siamo in presenza di un reato, allora ce ne dovremmo far carico, denunciarlo all'autorità giudiziaria e poi dopo vedere quali sono le conseguenze, ma credo che sia molto complicato e molto difficile se uno faccia uso personale di quello che comunemente viene chiamata droga, il proprietario possa adire l'autorità giudiziaria e risolvere il contratto di locazione. Insomma, qua ci dobbiamo affidare un po', come in tante cose, al buon senso, però magari stamattina abbiamo messo un po' la pulce all'orecchio di qualche proprietario, magari se a questo aspetto non aveva pensato, che se lo dica con il potenziale inquilino all'inizio, no? Ma di solito parlatevi. Di solito c'è sempre un colloquio iniziale tra però il proprietario e l'inquilino, però difficilmente potrà dire ti droghi o meno. No, oppure che lui dica, a proposito mi faccio la canna, me la dà lo stesso la casa. Entra in una sfera del privato dove molto difficilmente si può entrare. Insomma, comunque una domanda magari, ecco, da oggi in poi la si può pure fare, poi decidere. Ecco qua. 800 24 00 24, questo è proprio il numero verde a cui fare domande, ma per raccontare anche le vostre esperienze. Se siete stati da ragazzi, avete avuto dei coinquilini, oppure se state cercando una casa in affitto per i vostri figli o per voi stessi, come diceva Paola, è una manovra anticrisi, si cerca anche la casa in condivisione anche se non si è più universitari. Infatti i miei primi anni di Milano sono stati in condivisione, tantissimi anni fa, praticamente nel Medioevo, ma è successo. Dove andiamo? Andiamo a Modena, c'è Marisa all'800 24 00 24. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno Marisa. Buongiorno a voi, grazie per l'opportunità. Diciamo che seguo sempre Radio 24, ormai dipendo da Radio 24. È una buona dipendenza questa, brava. Ci dica. Ok, allora io praticamente sono un affittuario e dico che noi non siamo tutelati a dovere. E secondo me, faccio una domanda, cioè per far ripartire l'economia potrebbe essere anche una soluzione se ci pagassero i debiti. Perché noi a volte i nostri affitti sono un'integrazione alla pensione. Lei è un'affittuaria nel senso che è una proprietaria, Marisa? Una proprietaria, ecco. Esatto. Sì. No, allora, i casi sono canone concordato, per cui molto favorevoli, no? Viene incontro a loro, casomai sì, veniamo incontro anche noi, ma viene incontro all'inquilino perché pagano meno d'affitto, ok? Poi ti lasciano, ti dicono sì, paghiamo le spese condominiali, ma ti lasciano le spese condominiali e partono per l'estero, per cui non sai più come fare. Marisa, guardi, io non vorrei essere maleducata e interromperla subito, stamattina stiamo affrontando un po' il mondo degli universitari, no? Per cui, capito, però mi avevate detto anche che c'era questa opportunità di riferirci, cioè, come affittuari. Sì, no, certo Marisa, assolutamente, di affittuari, qualora affittaste l'abitazione a studenti universitari, però la sua osservazione noi naturalmente la accogliamo molto volentieri, è un tema che Pucci conosce molto bene. Modena non è, credo, città universitaria particolarmente, come dire, conosciuta come altre, come possono essere Padova, Roma ed altre. Però Pucci, supportiamo un po' le considerazioni dell'ascoltatrice. Sì, lei ha perfettamente ragione su quello che stava dicendo. Ora, voglio dire, un contratto di locazione è sempre un contratto di locazione, anche se è specifico. Nel caso che oggi ci riguarda, naturalmente è una locazione di natura transitoria per esigenze abitative di studenti universitari, ma fa parte sempre di un contesto, diciamo, giuridico, e quindi le lamentele che prima portava l'ascoltatrice possono essere poi riportate anche in un contratto per gli studenti, cioè se ne vanno, non pagano gli oneri accessori, se ne vanno lasciando distrutto, eccetera, ma qui parliamo dello studente peggiore, non sono tutti così ovviamente. Assolutamente, ci mancherebbe altro. Però dobbiamo estremizzare il fatto e lo possiamo estremizzare, ma teniamo presente che pur essendoci questa possibilità di una locazione cosiddetta specifica e speciale, ci sono sempre i mezzi in un contratto di locazione per tutelarsi e quindi come tale basta fare un buon contratto di locazione, certo, naturalmente. Allora dopo noi faremo qualche esempio, Pucci. Volevo chiedere a Paola Dezza chi sceglie prevalentemente di condividere una casa, adesso a parte gli studenti, ma nel mondo dei lavoratori per esempio? Ma sono soprattutto donne, c'è anche una fascia di età precisa che arriva intorno ai 40 anni, 30-40 anni se non sbaglio, perché magari sono più avvezze a condividere case con altre persone, sono anche magari più tolleranti forse e stanno anche bene tra di loro, quindi sì, se si trovano bene caratterialmente facilmente possono condividere una casa, magari delle colleghe tra le quali nasce un'amicizia, è facile che poi vadano a vivere insieme. Allora andiamo adesso nella provincia di Bari perché ci aspetta Michele e poi saliamo e andiamo a Roma. Michele, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, a lei e ai suoi ospiti, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Radio 24. Nulla, l'argomento per me è un argomento che mi sta molto a cuore perché ho avuto occasione di avere una casa in affitto sia in qualità di studente universitario che come lavoratore. Ovviamente le esperienze sono diverse, quello che vorrei denunciare insomma nei pochi secondi che gentilmente voi mi date a disposizione e comunque, soprattutto le parlo di realtà provinciali, addirittura la non presenza di contratti regolari, quindi quello a cui faceva riferimento il dottor Pucci poc'anzi, insomma, dei contratti di natura transitoria, in realtà si tratta per lo più di quattro righe scritte una nero su bianco. Io le parlo da studente universitario e ci si ritrova magari a convivere forzatamente magari in 10 in appartamenti da 70 metri quadri dove magari delle piccole stanze ospitano anche due letti. Certo. In che città è andato? Di quale città sta parlando Michele lei? Guardi, io le parlo di Salerno, insomma, nello specifico, però comunque so che è comunque un'abitudine, tra virgolette, piuttosto diffusa fra i proprietari. Grazie Michele. Sì. Allora, vabbè, intanto anche quattro righe. Lo studente. Anche quattro righe scritte in maniera confusa, sempre meglio che non aver nessun documento che attesti la presenza appunto all'interno di una casa. Paola, un tuo commento, se vuoi poi andiamo a Pucci. Beh, in realtà proprio il bacino degli studenti è stato per anni vittima degli affitti in nero, di case anche fatiscenti, quindi sicuramente questo è un argomento che in Italia per anni ha tenuto banco. Infatti. Proprio perché adesso con la cedolare secca forse si è ovviato, anche se in maniera minima diciamo, al problema del nero, ma che sussiste ancora sicuramente, gli studenti sono forse le vittime predestinate. Anche se qualche volta bisogna, come dire, imparare a dire di no, se la casa che ci propongono è assolutamente improponibile, magari diamoci da fare, io non lo so, poi capisco che magari c'è anche 50 euro in più spendere mensilmente, può incidere in tutto il budget che uno si dà, no, per la vita universitaria fuori casa, però qualche volta bisogna fare così. Le soluzioni diverse. Pucci, andiamo un po' alle tipologie di contratto d'affitto, rispondiamo alle domande più comuni, le faccio un esempio, no? Un proprietario affitta una casa e la dà a disposizione magari di quattro studenti, quindi facciamo una situazione vivibile, non 10 come il nostro amico di Salerno. Esatto. Allora, intanto 10 studenti dentro 60 metri quadrati, cioè, qui c'è l'ordine pubblico, vabbè, ma comunque vabbè. D'accordo. Allora andiamo ad una situazione liscia. Chi si intesta il contratto d'affitto? Ma guardi, qui c'è una libera scelta, una libera contrattazione, di solito si può fare un unico contratto con le 4 o le 5 persone cointestatarie dell'unico contratto di locazione, poi lì ci sarà la possibilità di gestire il turnover, cioè vale a dire su 4 studenti ne esce uno e ovviamente gli altri 3 si devono preoccupare a mettercene dentro un altro, altrimenti rischiano di pagare pure la quota dello studente che è in uscita. Anche se in genere può anche capitare che sia il proprietario ad occuparsi del reintegro della persona che viene a mancare, no? Qui sì, pure è una libera scelta. Sì, però c'è un problema fondamentale: se sono 4, tutti e 4 cointestatari della locazione, ne esce uno, chi rimane obbligati sono i 3 che rimangono lì dentro, quindi credo che sia più un problema dei ragazzi che del proprietario, però magari, ecco, come diceva prima lei, il buon senso vuole che tutte e due le parti si mettano in cerca del quarto che è uscito o o del terzo che uscito. Senta, nel contratto d'affitto che si stipula in questi casi, sì. Poi Dario Acquara appunto sul Sole 24 Ore ricordava, sì, che può essere quello libero, può essere quello a canone concordato, sì, può essere il contratto transitorio che lei ci ha detto prima. Quanta caparra e quanti canoni anticipati devono dare gli studenti, anzi le famiglie? Allora, detto che c'è proprio per quello che stavamo adesso analizzando, cioè per lo studente universitario, c'è proprio il contratto di locazione ad hoc di natura transitoria per gli studenti universitari. Poi è chiaro, come diceva giustamente la dottoressa, ci sono una serie di contratti di locazione che possono essere più o meno stipulati a seconda delle esigenze. Questo di cui noi stiamo parlando è ha una durata limitata nel tempo che deve non essere inferiore ai 18 mesi e non superiore ai 36 mesi. Per quanto riguarda poi la caparra o deposito cauzionale, come di solito viene chiamato, qui c'è una limitazione perché non possono essere richiesti più di 3 mensilità del canone di locazione richiesto. Però poi qui si instaura, diciamo così, una situazione, come dicevo, per rispondere anche all'ascoltatore che prima diceva appunto delle 4 righe o dei 4 articoli che vengono inseriti, ma qui voglio dire, la disciplina di un contratto di locazione dipende dalla volontà delle parti e quindi contrattualmente possono essere inseriti anche determinate garanzie, non sono solamente quelle del deposito cauzionale, ma questo fa parte naturalmente di una contrattazione tra chi dà in locazione e chi riceve in locazione. Evidentemente. Allora, sentirei anche un altro ascoltatore, Nicoletta, se ritieni. Andiamo. Così andiamo a Roma, sì, perché avevamo anticipato. Mauro, buongiorno. Buongiorno, salve, complimenti per la trasmissione. Bravo, complimenti a lei che ci segue. Salve. Ci dica. Senta, io ho una domanda. Dunque, io chiamo in duplice veste di proprietario e inquilino. Mm. Ovvero, io sono proprietario di un appartamento a Roma e, diciamo, avendo più di una stanza a disposizione, per un periodo di tempo ho affittato l'altra camera. Il problema che mi sono posto è questo: quale forma contrattuale si può stipulare in queste situazioni? Certo, perché lei è il proprietario che abitava lì, no? Esatto, io risiedo qui e affitto la stanza a uno studente o a un lavoratore per un periodo minimo di un anno, ovviamente, quindi parliamo comunque di non di un affittacamere o di un bed and breakfast. E non sono riuscito a trovare una forma contrattuale che mi permettesse di essere, diciamo, in regola. Pucci, anche questa, insomma, per Mauro addirittura è una situazione che lui ritiene un po' originale, no? Ma in realtà ci sono molte persone che ospitano all'interno della propria casa, magari degli studenti, accogliendoli se arrivano da altre città, però effettivamente un contratto d'affitto in questo caso richiede forse una stipula particolare, un'attenzione particolare. No, assolutamente. Lui può affittarsi, diciamo così, quella parte di stanza e riservarsi quell'altra dove dorme oppure dove vive. È uno di questi contratti che abbiamo detto prima, è un transitorio anche questo? Certo, può fare anche questo, oppure può fare un normalissimo contratto di locazione di 4+4. L'importante è che se lui si riservi naturalmente l'uso di quella stanza. Paola Dezza voleva aggiungere qualcosa. Ci sono anche casi in cui appunto chi ha a disposizione un appartamento del genere sceglie di affittare la stanza magari per periodi brevi, quindi c'è il contratto breve sotto i 30 giorni, magari per chi l'affitta a settimane, caso dell'Expo a Milano. C'è chi ci sta pensando, insomma. Ah, no, spiegaci un po' cosa succederà con l'Expo. In vista delle grandi manifestazioni magari arriveranno tantissimi visitatori, gli alberghi a Milano non sono un numero sufficiente, per cui molti stanno pensando di mettere a disposizione magari una stanza in più che hanno vuota, di affittarla per periodi brevi. Quante puntate dovremo fare l'anno prossimo, insieme a tutte quelle dedicate all'alimentazione? Naturalmente ci occuperemo anche dei contratti super transitori. Abbiamo fatto una copertina a luglio proprio su questo, ecco. Proprio in vista dell'Expo. Non me lo ricordavo bene, no. Mi ha colto in castagna. No, colto in castagna. Allora, tra l'altro, e invece Pucci, come si ripartiscono le spese per, in questo caso? Quali spettano proprietari? Se noi parliamo di questi particolari contratti, cioè vale a dire quelli degli studenti universitari, esiste il decreto del Ministero dell'Infrastruttura di concerto col Ministero dell'Economia, mi pare che risalga al 2002, adesso non ci giurerei, dove ci sono proprio le tabelle degli oneri accessori ripartite tra locatore e conduttore. Un allegato a questo contratto, possono scaricarselo benissimo sia i proprietari che gli inquilini. Lo cercheremo, così almeno lo mettiamo su Facebook. Sono molto maleducata, la devo salutare perché come sente abbiamo la sigletta di chiusura. Pucci, grazie per essere stato con noi. Per tutte le informazioni andate a trovare magari qualche ufficio del LUPI, l'Unione dei Piccoli Proprietari, anche quelli magari del SUNIA, no? Per il sindacato appunto degli inquilini. Grazie a Paola Dezza. Grazie a voi. Grazie Nicoletta. Grazie Deborah. Domani sempre forse ancora con Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica, e Marco Lombardi in redazione. A domani. Cuore e denari.